Radio 24 Reportage. Quel che resta dell'Ira, di Giampaolo Musumeci e Tommaso Della Longa. Are you ready to die? Yep. Sì, siamo pronti. Siamo pronti a morire, in qualsiasi momento. Gli occhi dietro il passamontagna saettano gelidi, le mani fasciate dai guanti mimetici sono bene in vista. La voce è un rasoio. La voce, quella, la sentite camuffata per ragioni di sicurezza. Noi rappresentiamo il Continuity Irish Republican Army, che è stato fondato nel 1986. Il nostro obiettivo ultimo è l'Irlanda unita e la cacciata completa del governo e del dominio britannico, senza se e senza ma. All'ombra dei Peacewall, i muri che separano i quartieri cattolici da quelli protestanti, all'ombra della profonda recessione che attanaglia anche le sei contee, l'Ira ricarica le armi. A dispetto di chi sbandierava da tempo le parole pace e normalizzazione in un'Irlanda del Nord che invece appare ancora profondamente instabile, l'esercito repubblicano fa sentire la sua voce. Parla un portavoce della RIA Lira, responsabile dell'attacco alla caserma britannica di Mazarin un anno fa. E parlano in esclusiva anche due membri della Continuity, l'organizzazione che rispose due giorni dopo, uccidendo un poliziotto a Cregavon. Aspettatevi altri attacchi, la campagna militare avrà un salto di qualità, garantisce il portavoce della RIAL, che non vuole essere registrato, sempre per motivi di sicurezza. RIAL e Continuity sono le due costole dell'esercito repubblicano irlandese, che non hanno mai aderito al Gulfry Agreement del 98, che mise fine a 30 anni di guerra e oltre 3.000 morti, che non hanno mai dismesso il loro arsenale e che soprattutto sono pronte a sparare ancora. Mazarin dunque è stato solo l'inizio, gli obiettivi rimangono polizia e soldati britannici, la polizia, la PSNI, la ex-RUC. La popolazione continua ad accomunare i nomi del passato a quelli del presente, dicono che non è mai cambiata. Un tempo inaccessibile ai cattolici e tuttora a maggioranza protestante si è spesso macchiata di vessazioni e violenze, ma a sentire i cittadini nei quartieri cattolici di Belfast, Derry o Antrim, hanno cambiato nome, ma non modalità, sono sempre a infastidire la gente. All'Argan ci dicono che sì, c'è della gente che è contro la polizia, che dà sempre fastidio alla popolazione e che ci sono alcuni nella zona che supportano chi prende le armi. La devolution attuata in queste settimane dei poteri di giustizia e polizia poteva calmare le acque. Da Londra a Belfast il passaggio di due poteri di particolare delicata gestione. Ma i repubblicani intransigenti non riconoscono il Parlamento di Stormont e chi vi siede. Lo ritengono un Parlamento fantoccio, emanazione di Londra. E quindi la devolution è, come dire, una mossa formale, di semplice propaganda. E la recente bomba al tribunale di Newry, appena fuori Belfast, ha chiarito che per i repubblicani armati la via giusta non è questa. Quanto all'ingresso dei cattolici nella polizia, essi sono visti come fumo negli occhi e considerati nemici quanto i protestanti, proprio perché la PSNI e i loro metodi antirepubblicani e pro-inglesi sono l'obiettivo. C'è un problema su tutti a Belfast e nelle sei contee, ed è l'eredità del passato. Un passato sanguinario, pesante e angosciante, fatto di morti, feriti, carcere, scioperi della fame, vessazioni, lotte e aspirazioni mancate. Per cui voltare pagina è molto molto difficile. Una donna di Carlisle Road, zona cattolica. You know, I had a good job at one time in a tobacco factory. Avevo un buon lavoro in una manifattura di tabacco, proprio qui nel quartiere cattolico, ma la maggioranza degli operai era protestante. Mi hanno picchiata e hanno lasciato una bandiera britannica sul mio macchinario. Alla fine ho dovuto lasciare il mio lavoro. La disoccupazione in alcune zone di Belfast e delle sei contee è altissima, sfiora il 75%. Qui non c'è solo un problema di nazionalismi e la religione non è l'unica ragione di conflitto, anzi, spesso sembra un velo pretestuoso che viene squarciato con violenza. L'anno scorso un 17enne di Ardoyne è stato ucciso a bastonate da un gruppo di teenager protestanti. Il giovane era ateo. Gli attacchi incendiari a scuole, pub, tafferugli, risse fra le due comunità non si contano. Il settarismo e la segregazione covano risentimento e frustrazione, sentimenti assai diffusi nei quartieri poveri di Belfast. E la frustrazione rende sensibili le persone alla lotta armata. Camminando per Falls Road e Shankly Road, tra i murales che celebrano gli eroi e caduti dell'una e dell'altra parte, molta gente trema al solo pensiero di tornare agli anni bui della lotta armata. La violenza è una cosa che appartiene al passato e non credo nessuno voglia tornare indietro. Non credo che dopo gli ultimi episodi di violenza il processo di pace ne risentirà. In passato c'era una certa simpatia per i gruppi paramilitari, ma ora non c'è più. Quello che c'è è l'insoddisfazione di intere comunità della working class, anche protestante, che non vedono spiragli di luce. E quindi nuove generazioni pronte a inseguire le orme dei padri, spesso mitizzati, a suon di bombe e proiettili. Esiste una Young Ira, una giovane Ira, ci ha spiegato il portavoce della RIAL, in cui si può entrare dai 16 anni in su. Le capacità richieste sono intelligenza, abilità nell'uso di armi esplosivi. Noi cerchiamo i giovani, ci ha riferito, che si mettono in luce negli scontri di piazza. In questo quadro, un motivo di speranza per chi lavora sulla pace è la dismissione degli arsenali dei gruppi paramilitari lealisti UDA, Ulster Defence Association, e UVF, Ulster Volunteer Force, e INLA, Irish Liberation National Army, un'altra costola del vecchio esercito repubblicano. Ma intanto la gente vive all'ombra dei muri. Have you seen that wall, the peace wall? Vedi il muro lì? Il Peace Wall serve a dividere le due comunità, come in Palestina, ci ha detto James, un giovane 26enne protestante, la notte del 12 luglio, mentre accatastava la legna sul bonfire, la tradizionale pira che avrebbe bruciato il tricolore irlandese. La stagione delle marce consegna le cronache anche questo tipo di celebrazioni. La pace, il dialogo, l'abbattimento dei muri di cui si inizia a parlare. Ma c'è chi crede che la via armata sia ancora la soluzione. Ascoltate ancora i due membri di Continuity Ira a cui chiediamo se dobbiamo aspettarci altre azioni. Chiaramente non abbiamo intenzione di stare qui a discutere dei nostri movimenti e delle nostre azioni con voi giornalisti, però in futuro sì, ci saranno altre azioni. Noi siamo qui per restarci e non ce ne andremo da nessuna parte. Per quanto ci riguarda, Sinn Féin e i Provisional non hanno nessun diritto di rappresentare il movimento repubblicano. Loro si sono venduti e ci hanno venduti. Loro stanno partecipando al Free State Government e al governo di Stormont, che noi non riconosciamo. Qui viviamo ancora in uno stato britannico. Non c'è niente a Stormont che ci convince che nel futuro ci sarà un'Irlanda unita. I politici non stanno lavorando per noi su questo. I Provisional non stanno lavorando per noi. Abbiamo avuto morti, sciopero della fame, morti in operazioni, uomini in prigione, famiglie che hanno fatto sacrifici in 800 anni, non solo in questi ultimi 30 anni. 800 anni della nostra storia. E questi sacrifici sicuramente non sono stati fatti per amministrare il dominio britannico in Irlanda, che significa Stormont, il governo di Stormont e il cosiddetto processo di pace. Per quanto ci riguarda, i nostri obiettivi non sono stati ancora raggiunti. E finché il nostro obiettivo di un'Irlanda unita non sarà raggiunto, saremo sempre qua e nessuno ci potrà mandare via. Alle domande sulla struttura di Continuity Ira, su come si procurano le armi e i soldi per le operazioni, la loro è una sfilza di no comment. Sui contatti con altre organizzazioni all'estero, ammettono che essi esistono. Chiediamo loro se abbiano fiducia nel futuro. Sì, abbiamo fiducia, molta fiducia. La storia è dalla nostra parte. La gente ci sostiene più adesso che mai nel passato. I Provisional hanno perso tutto il loro supporto. I Provisional sono coloro che hanno firmato il Gulfay Agreement e gli accordi del Venerdì Santo e hanno messo giù le armi. Chiediamo ancora, se l'Irlanda del Nord fosse libera, il ruolo dell'Ira sarebbe terminato? No, se l'Irlanda intera fosse libera, non solo il Nord. Noi siamo contrari anche al Free State Government in Irlanda. È l'Irlanda intera che deve essere libera, non solo il Nord. Nord e Sud. Noi la vediamo come un paese solo. Così quando voi parlate della libertà dell'Irlanda del Nord, noi ti rispondiamo che è l'Irlanda intera che deve essere libera dal governo irlandese e il governo britannico. Vogliamo l'autodeterminazione per il popolo irlandese, il diritto per noi di decidere il nostro futuro, il nostro destino. E questo non può includere un governo britannico, sia nel nord che nel sud. Noi non vediamo l'Irlanda come due parti, ma come un paese solo. La soluzione della questione delle sei contee, la fine del settarismo, la pace definitiva in Irlanda del Nord è lì. A volte appare vicina, a volte infinitamente lontana. Belfast e le sei contee sono una polveriera e la politica non sembra in grado di trovare una soluzione. I media britannici, ma non solo, spesso sottovalutano la cosa. non si parla di Irlanda del Nord. È imbarazzante per l'Europa del nuovo millennio un conflitto religioso e sociale nel suo cuore. È imbarazzante per Londra focalizzare le sue risorse di intelligence sulla questione nordirlandese. È imbarazzante che in una capitale europea ancora si possa camminare all'ombra di un muro. La soluzione? L'Irlanda unita? La questione sembra più da accademici di geopolitica o forse di fantapolitica. Ma in una recente conferenza a Londra organizzata da Sinn Féin, il partito di Gerry Adams ha detto che l'Irlanda unita è inevitabile. Mossa di propaganda, hanno detto i repubblicani. Nel sud Sinn Féin non avrebbe alcun sostegno e perderebbe i suoi posti in Parlamento. Gli ex alleati non hanno a cuore la lingua irlandese, come potrebbero lottare per l'Irlanda unita? E così, l'amaro pessimismo della donna cattolica di Carlisle Road rischia di diventare un sentimento diffuso. Not in my day. No. Una soluzione? Non nella mia vita. Forse i miei nipoti, i miei figli. Mia nonna mi diceva, ci sarà un'Irlanda unita. Io non l'ho vista. Tu forse la vedrai. I tuoi figli forse la vedranno. She says, your children probably won't see it.